perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, proverò a spiegartelo in termini semplici. Se vai all'agriturismo con i buoni pasto, ci puoi pagare le marmellatine o i sughetti che compri, ma non la notte che trascorri là. Ti è tutto chiaro o manca ancora qualche passaggio? No, non è chiaro per niente, Deborah. Buongiorno, buongiorno. Tutti sforzi. Però ci dobbiamo fare la puntata? Ho bisogno di un supporto degli esperti, perché sai che da sabato sono cambiate le regole dei buoni pasto. Lo so. Ne avete scritto tanto, voi ci avevi fatto anche c'è imposta per te. Ma sai, celiare è una cosa, spiegare è un'altra. Esatto, allora noi oggi dedicheremo gran parte della nostra trasmissione proprio a spiegare ai nostri ascoltatori la nuova disciplina dell'utilizzo dei buoni pasto. D'altronde parliamo in Italia di almeno 2,5 milioni di utilizzatori di questo strumento sostitutivo della mensa, ma che in realtà viene utilizzato per ben altro. Però non parleremo solo di questo. No, perché parleremo anche dei master. Dei master perché il completare la propria formazione, una laurea triennale o magistrale, con un master è diventato una cosa sempre più frequente anche all'estero. Allora, noi domani per le famiglie italiane è un investimento importante. Domani, tra l'altro, con il Sole 24 Ore daremo in edicola una guida ai master in 72 pagine. Abbiamo invitato qui la collega che proprio se ne è occupata. Esatto. E ne parleremo. Ha censito i 2700 corsi attivi in Italia uno per uno, ma esatto, li ha visitati tutti. No, scherzo. In realtà è un lavoro molto, molto articolato, esatto, che si completa anche con una parte internet, ma lo diciamo più tardi. Assolutamente. Possiamo già coinvolgere su questi argomenti i nostri ascoltatori? Ritieni di poterlo fare? Fateci delle domande, mandateci dei messaggi, mandateci delle foto. Potete scriverci SMS o WhatsApp. Il numero è il solito 349 238 6666. Ma potete anche chiamarci in diretta all'800 24 00 24. Abbiamo detto tutto, siamo pronti a partire. Arrivano i buoni, arrivano finalmente, hanno capito che... Allora, c'è un ascoltatore che su WhatsApp, Mauro, si lamenta del fatto che la diretta Facebook fa ancora vedere Milan e compagnia. Speriamo che presto possiamo arrivare anche noi, esatto, in tutta la nostra bellezza. Intanto, nel caso in fossimo in diretta, salutiamo i nostri amici. Salutiamo la pagina Due di Denari, Radio 24, esatto, su Facebook. Andate lì. Allora, i buoni pasto. Da sabato scorso, come dicevamo, il Sole ne ha scritto diffusamente, sono scattate le novità sui ticket, un mercato molto ampio in termini di utilizzatori, come dicevamo prima, 2,5 milioni almeno in Italia, per un volume d'affari generato da 3 miliardi di euro. Cosa è successo sabato scorso? Che è entrato in vigore il decreto 122, che ha introdotto alcune modifiche sostanziali alla disciplina dei, bisogna chiamarli come si chiamano, servizi sostitutivi alla mensa, perché, Mauro, sono state ampliate le modalità, le opportunità di utilizzo. Quindi diciamo che fondamentalmente ci sono delle buone notizie per gli utilizzatori. Sì, perché c'era stata una misura, ma poi lo chiederemo ai nostri esperti, ai nostri ospiti che abbiamo in collegamento, c'era stata una misura più restrittiva e questo aveva generato un po' di preoccupazione, perché, come dicevi tu prima, l'utilizzo dei buoni pasto, ancorché si chiamino sostitutivi della mensa, è in realtà molto diffuso anche per pagare ad esempio al supermercato. Certo. E quindi questa disciplina, che risaliva al 2010, aveva dato più di una preoccupazione. Poi ci sono state delle ulteriori modifiche. Adesso abbiamo dei buoni cartacei da una parte, dei buoni elettronici. I buoni elettronici sono favoriti fiscalmente e hanno un valore superiore. Esatto, il valore facciale è superiore, valgono ognuno, diciamo che l'esenzione fiscale c'è fino a un valore di 7 euro, poi in realtà possono valere anche di più. Ci sono oggi 120.000 esercizi convenzionati, ma in realtà la disciplina dà anche l'opportunità di un ampliamento, quindi c'è adesso la possibilità per ampliare il numero degli esercizi convenzionati che possono fare utilizzare i buoni, ma non vorrei anticipare troppo, perché sennò che cosa abbiamo chiamato a fare i nostri amici. Allora, intanto ringrazio e saluto l'esperto del Sole 24 Ore che ha decifrato per i lettori, e stamattina lo farà anche per gli ascoltatori di Radio 24, tutta la nuova norma. Dottore commercialista Stefano Sirocchi, esperto appunto del Sole, buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E poi tutti gli attori in campo, in qualche maniera, Mauro. Eh sì, perché infatti abbiamo in collegamento Andrea Keller, che è l'amministratore delegato di Edenred Italia. Buongiorno, dottor Keller. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Per chi non lo sapesse, Edenred è la società che praticamente distribuisce, confeziona, produce, ha inventato i ticket restaurant, che sono assolutamente i buoni pasto più diffusi in Italia. Infine, Esmeralda Giampaoli, non siamo stati molto galanti e ce ne scusiamo, la presentiamo per ultima, che è presidente della Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici in Confesercenti. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Allora, ribadisco 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, le vostre richieste di chiarimento. Sirocchi, andiamo subito all'ABC delle novità introdotte da sabato scorso. Noi le abbiamo un po' sintetizzate, le novità con Mauro, ma andiamo anche un po' al linguaggio formale delle novità. Qual è la novità più importante entrata in vigore da sabato scorso? Dunque, quella allora, di maggiore impatto e portata? Sì, diciamo sostanzialmente le novità sono tre. La prima è l'ampliamento degli esercizi pubblici che possono accettare, quindi che sono autorizzati ad accettare questi buoni. La seconda è la possibilità di cumulabilità fino a otto buoni. Quindi che cosa significa? Vuol dire semplicemente che si possono utilizzare in contemporanea fino a otto tagliandi in forma cartacea o elettronica, non fa differenza, l'importante è che non si superi questa soglia. Terza novità è che dal 9 settembre scorso è possibile utilizzarli in qualsiasi giorno dell'anno e non solo come era previsto nel DPR del 2010, che era diciamo il decreto che precedentemente si occupava della materia, diciamo è possibile, abbiamo detto, utilizzarli in qualsiasi giorno, mentre prima era necessario utilizzarli durante i giorni lavorativi, anche domenicali o festivi, se appunto se fossero stati giorni lavorativi. Quindi diciamo che sostanzialmente c'è una maggiore comodità di utilizzo, una maggiore fruibilità, perché lo diciamo subito, tra gli esercizi pubblici che possono accettarli, quindi che sono autorizzati ad accettarli, ci sono gli agriturismi e gli ittiturismi. Quindi agriturismi li conosciamo tutti, gli ittiturismi sono sostanzialmente i pescatori che provvedono anche a fornire prodotti ovviamente ittici. Di pesce, quindi ittici, esattamente, quindi cooperative del pesce e quanto altro, e quindi diciamo queste sono, sintetizzando proprio all'estremo, le novità. Due precisazioni forse utili, la prima è che si tratta sempre di facoltà, quindi non è che domani possiamo andare in un agriturismo e pretendere l'accettazione del ticket, del buono pasto, perché è chiaro che tra il singolo agriturismo e la società di emissione, ad esempio Edenred c'è oggi, certo, e ci deve essere un accordo, che è un accordo, ricordiamolo, privatistico, quindi è un accordo di diritto privato che nel decreto, tra l'altro, sono state diciamo date delle linee guida, però comunque rimane un accordo di diritto privato, quindi l'accordo, benché probabilmente sarà un accordo standard, comunque regolamenta l'utilizzo, certo, poi diciamo di questi diritti. Generalmente, ecco, lo mettono anche abbastanza visibile, no? Gli esercizi commerciali che li accettano, si accettano, sì, buoni pasto, ticket restaurant, quindi se non è affisso alcun manifesto magari di evitiamo di metterci. Ci sono delle vetrofanie che esatto, sulle vetrine appunto lo segnalano. Infatti. Ecco, dottor Sirocchi, una cosa, sì, vediamo spesso che a volte non bastano appunto gli otto, in questo caso, cioè da sabato scorso, gli otto buoni, si integra con del contante. Questo è ancora possibile? Assolutamente sì, cioè nell'utilizzo praticamente il decreto sostanzialmente dice che vanno utilizzati per l'intero valore facciale, che vuol dire che non è possibile avere il resto, cioè se io acquisto ad esempio un prodotto alimentare da 3 euro e ho un ticket, supponiamo da 5,29 euro o da 5 euro, l'esercente convenzionato non può darmi il resto, quindi lo devo utilizzare necessariamente per tutti i 5 euro. Però può scalare virtualmente il valore, magari qualche volta capita che dietro appena si metta il valore residuo è 2 euro. Non sarebbe possibile. È uno diciamo dei vari abusi che lei segnala sul Sole 24 già fatti, però sì, insomma non è proprio neanche un reato così grave, non lo so. No, così, però diciamo il decreto diciamo non lo consente, mentre invece è possibile l'integrazione monetaria, che era quello a cui si accennava prima, cioè Se naturalmente utilizzo ad esempio 4 buoni da 5, quindi 20 euro di valore, e la spesa è di 23 euro, supponendo che sia sempre spesa di generi alimentari, i 3 euro di eccedenza li posso versare come voglio, in contanti, carta di credito, tutti i sistemi di pagamento accettati, diciamo. Ecco, qualche ascoltatore ci scrive, ad esempio Giovanni, un sms 349-238-6666, e ci dice: ma di fatto sono sempre stati cumulabili. Allora qui mi sembra di capire, dottor Sirocchi, sì, sono sempre stati cumulabili, però agivamo tutti un pochino così nella, come potremmo dire, allegria della norma, nel senso che nessuno nella poi... Nella lacuna, ecco, sguazzavamo nella lacuna, ecco. Allora, sguazzavamo in una lacuna normativa, nessuno ci diceva niente, lo facevamo. Adesso è diventato nella legalità, questo è il cambiamento rilevante. Sì, è vero, è proprio questo. Allora, diciamo così, che essendo così restrittivo il precedente decreto, cioè parliamo del DPR 207 del 2010, che in realtà richiedeva due cose in particolare: uno, che fossero utilizzati i ticket uno alla volta, e abbiamo accennato prima che fossero utilizzati durante la giornata lavorativa, quindi veramente molto simile a un servizio di mensa, no? Dovevo utilizzarlo lo stesso giorno in cui lavoravo e uno. E il problema qual era? Che operativamente non sempre era facile trovare magari un esercizio convenzionato nelle vicinanze del posto di lavoro, e considerando anche la pausa di lavoro generalmente breve, era gioco forza che questi buoni si cumulassero, perché proprio per necessità, nel senso, non essendo possibile fruirne, chiaramente si cumulavano. Quindi diciamo che il nuovo decreto 122/2017, quello appunto che è attualmente in vigore, recepisce le indicazioni del Consiglio di Stato, il quale ha visionato lo schema di decreto che gli era stato sottoposto, e nel quale si era previsto ad esempio un limite di 10 ticket. Il Consiglio di Stato ha detto, ha accolto l'idea dell'accumulabilità, proprio anche per un allineamento poi in effetti a quello che realmente già succedeva, cioè la prassi comune era appunto un utilizzo appunto in contemporanea di più buoni, però allo stesso tempo ha rilevato che 10 a parer suo era un numero un po' troppo alto, e quindi ha suggerito una leggera riduzione. Nel testo finale poi abbiamo letto che questo limite è stato portato a 8. Grazie. Forse, Deborah, possiamo chiamare in causa subito un'ascoltatrice, se non mi sbaglio. Maurizio da Vicenza, che ci dà una buona sponda per naturalmente interpellare anche gli altri ospiti che abbiamo chiamato, perché devo dire che, a giudicare anche dal tenore degli sms che arrivano, mi pare che i commercianti fondamentalmente non abbiano non siano particolarmente soddisfatti o convinti delle novità. Adesso cercheremo di capire perché. Maurizio, benvenuto da Vicenza. Sì, buongiorno. Volevo solamente sottolineare una cosa, che voi fino adesso avete parlato di buoni pasto per i vantaggi di coloro che lo ricevono, certo, dalla propria azienda, e ci sta tutto, va benissimo tutto. Però non parlate mai dello strozzinaggio che fanno noi commercianti. Io vi dico che un ticket restaurant a noi restano sì e no l'82-83% del valore di facciata, sempre che quando li mandiamo poi ad incassare, ossia alle aziende, mandiamo il cartaceo, cioè dobbiamo mandare tutte queste centinaia e migliaia di buoni, loro tranquillamente ci vengono a dire: guardi che non erano 2726, ma sono 2708, faccio un esempio. Lei, certo, non ha nessuna controprova, prima cosa. Seconda cosa, il valore vale, loro si trattengono da un minimo del 10% a un massimo del 20% su quelli elettronici, perché noi dobbiamo pagare un canone per il POS, un canone per avere diritto a poter incassare quei buoni elettronici, mentre i supermercati e quant'altro, facendo dei volumi e numeri notevolmente superiori a noi, non hanno di questi problemi. Infatti tanti ascoltatori, Maurizio, segnalano anche il fatto che comunque in barba alla norma in vigore in precedenza utilizzavano già a piene mani, cumulandoli tutti al supermercato, i buoni disponibili. Andiamo alla dottoressa Giampaoli, Smeralda Giampaoli, appunto presidente della Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici. Per cui per voi il quadro non è cambiato, dottoressa Giampaoli, alla luce anche della denuncia, tra virgolette, fatta dal nostro ascoltatore. Non c'è una disciplina migliore per la categoria degli esercenti? Ma purtroppo assolutamente no, come dire, quello che avete ampiamente ben spiegato la dice tutta. Comunque sia, cumulare 8 buoni di un valore vero medio di 7 euro, però esistono anche buoni da 10-12 euro, significa come dire, raggiungere somme ragguardevoli. E chiaramente queste somme ragguardevoli vengono molto spesso spese, quindi utilizzate nella grande distribuzione e per motivi di opportunità e per motivi di comodità, come avete già ampiamente sottolineato. Il tema però, come dire, è un altro. Se la razza della restitutrice della norma che ha, come dire, istituito i buoni pasto era quella di sostituire laddove non esisteva il servizio di mensa, di fatto questo oggi non avviene più. E la nuova normativa va di fatto a sanare tutte quelle illegalità che, concordo, esistevano già relative alla normativa precedente. Quindi assolutamente per la categoria che rappresento è un danno enorme. Noi avevamo proposto, invece della cumulabilità numerica, un tetto massimo di spesa sul modello francese, che noi avevamo indicato in 21 euro, che ci pareva comunque essere una cifra soddisfacente per poter fare un pasto assolutamente confacente. Però evidentemente, come dire, è stata ascoltata in maniera prevalente la ragione di soggetti sicuramente più strutturati e più grandi dei nostri. Chiaramente, come diceva prima l'esercente che ha chiamato, questo per noi rappresenta un danno, perché come dire, la rete dei pubblici esercizi è stata in qualche modo la forza che ha consentito anche a questo strumento di diventare operativo e di diventare quello che è oggi. Ampliando il novero dei soggetti che possono accettare i buoni pasto e arrivando a cifre così considerevoli, io ritengo che verrà ancora spostata ulteriormente l'asse di spendibilità a favore di, appunto, supermercati oppure grande distribuzione, andando a danneggiare in maniera ancora più consistente, a prescindere da tutto il discorso che faceva prima l'ascoltatore rispetto alle cifre che vengono decurtate e il discorso del buono elettronico, a svantaggio della nostra categoria. E ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa: noi abbiamo da anni spinto verso l'abolizione del buono cartaceo e una propensione sempre maggiore per il buono elettronico, perché è vero che oggi il tetto è 8, ma nell'ipotesi in cui si parli ancora di buono cartaceo, la vedo molto difficile poter istituire dei controlli che vadano, come dire, a far attuare anche questa nuova normativa. Quindi di fatto sono 8, ma come dicevate, certo, voi prima, sul cartaceo potrebbero essere 12 o basta cambiare la data. Certo. Quindi secondo noi il passaggio a buono pasto elettronico, nonostante che noi non siamo soddisfatti di questa nuova norma, potrebbe dare una maggior garanzia che comunque quello che è previsto nella legge venga poi rispettato. Vorrei chiamare in causa allora a questo punto Edenred, perché, certo, visto che abbiamo anche segnalato le opportunità dell'uso dei buoni pasto, ma anche le difficoltà ad esempio per gli esercenti, allora sentiamo cosa ci può dire Andrea Keller, che è l'amministratore delegato di, certo, Edenred Italia. Tra l'altro sai che il buono pasto ha già 50 anni di vita? Caspita, ma li porta benissimo. Li porta benissimo, no, dottor Keller? Sì, assolutamente. Dunque, effettivamente ci sono degli scambi, una discussione molto interessante. Parto, diciamo, dagli aspetti che io prenderei come positivi di questo passo in avanti che è stato fatto sul sistema dei buoni pasto. Sicuramente, da un lato, io penso che la normativa si stia adeguando a quelle che sono un pochino le abitudini alimentari moderne, vale a dire l'introduzione di realtà come gli agriturismo, piuttosto che un minimo di flessibilità, vanno di pari passo con la nozione di smart working, oppure di lavoro anche agile. Portarsi la schiscetta da casa, ci metterei, dottor Keller, perché insomma nutrirsi tutto il giorno al bar del vicino all'ufficio piuttosto che al piccolo ristorante non è un'abitudine alla quale tutti si prestano volentieri, per ragioni di tempo ma anche per ragioni di nuove abitudini alimentari. Insomma, 4 anni con Nicoletta Carbone a cuore denari hanno lasciato il segno, quindi ci metterei anche questo aspetto. Direi anche che ci sono delle abitudini in Italia. È apparso recentemente il 9 settembre un articolo del Corriere della Sera dove si parlava, che si cita che il 62% delle persone in Italia rientrano a casa per mangiare, e quindi sono delle persone che potenzialmente oggi possono beneficiare meglio del dispositivo, anche se le loro abitudini appunto li portano a rientrare a casa per la propria pausa pranzo. Da questo punto di vista quindi vedo un punto molto positivo. Un punto invece altrettanto positivo, direi, ma che va nel senso del discorso che è stato fatto in particolare dagli esercenti, è che io prendo positivamente il fatto che si rinforza la tutela dell'esercente in tutte le clausole che sono state previste dalla normativa sul rapporto contrattuale. Si parla di trasparenza, si parla di tempi di pagamento garantiti in linea con la normativa, si parla di commissioni applicate all'esercente che non possono superare le condizioni di sconto, diciamo che un cliente dei buoni pasto, quindi un'azienda che acquista buoni pasto, ottiene attraverso una procedura di messa in concorrenza. Si parla anche di un pagamento delle fatture garantito assolutamente per la parte su cui non ci sono eventualmente dei disaccordi di conteggio, quindi un emettitore non ha diritto di bloccare tutto il rimborso, può rimborsare la parte su cui diciamo c'è l'accordo con l'esercente, e se c'è uno scarto discutere unicamente dello scarto per risolvere eventualmente. Ma sono molto adesso devo andare in pausa, dottor Keller, dobbiamo andare in pausa, ma la questione che segnalava prima l'ascoltatore del dire alla società che ci dovrebbe rimborsare come esercenti, che in realtà mette in discussione spesso il numero di quelli realmente utilizzati, ma sono delle prassi diffuse, cioè hanno ragione i commercianti anche quando segnalano questi abusi visti dalla loro parte. Guardi, noi abbiamo delle procedure interne di controlli di qualità su questi elementi e intervistiamo ogni anno gli esercenti, e questo tipo di anomalie nel nostro caso sono rarissimamente segnalate, per non dire mai segnalate. Il fatto è che ci possono essere degli operatori di mercato che non seguono la prassi legislativa, ma allora a quel punto il problema non è il sistema, il problema è di un operatore che non rispetta la legge, e a questo punto l'operatore deve essere sanzionato. Certo. Se non rispetta il quadro normativo. E la sanzione ne parleremo dopo, sì, la pausa. Ne parliamo dopo la pausa, perché adesso è il momento naturalmente della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Due di denari. Bentornati. Che Peter ti vuole sempre allietare la mattinata con una adeguata colonna sonora, quindi... Ma vedo che poi Marco Lombardo insiste spesso sui Beatles. Sarà una ragione anagrafica? Manco era nato e quelli si erano già sciolti. Allora, non prendere questo dibattito, perché con il sonetto che hai portato ieri a Due di Denari, la musica trecentesca l'hai richiamata tu, quindi vabbè, già con i Beatles ci va anche bene. Effettivamente abbiamo fatto un grosso passo avanti. Allora... mi scuso naturalmente con gli amanti dei Beatles, e siamo in tanti, per avere parzialmente coperto Ticket to Ride. Perché parliamo dei buoni pasto. Allora, ci state scrivendo in diversi, ci suggerite parecchie cose. C'è un punto però che vorrei prima chiarire, tornando con Andrea Keller. Dottor Keller, lei prima segnalava questo sorta di tetto alle commissioni praticabili contenuto nella legge. Ce lo può spiegare meglio? Assolutamente, la legge sostanzialmente prevede che la commissione applicabile all'esercente non possa superare le condizioni di sconto praticate al cliente che acquisisce i buoni pasto. Quindi di fatto si tratta di un vincolo sano che si mette nella logica delle commissioni applicabili, che devono essere rapportate alle condizioni applicate al cliente che acquista i buoni pasto. Un secondo elemento a mio avviso molto importante è che è specificato nel quadro normativo che queste commissioni devono essere riportate sul contratto in modo chiaro e trasparente e devono essere anche rapportate a tutti i servizi oggetto di quel contratto, in modo tale che l'esercente possa in modo chiaro capire quanto costa l'accettazione e quali sono i servizi associati a questa commissione. Ci fa un esempio, dottor Keller? Esatto, perché cioè, chi è che deve pattuire con chiarezza questi aspetti? Fatico a seguirla. L'esercente con Edenred oppure per esempio il Sole 24 Ore che fa utilizzare i buoni pasto ai suoi dipendenti che poi vanno dal bar, esatto, dove in va? In generale, ecco, in modo molto semplice, in generale le aziende che vogliono mettere a disposizione i buoni pasto dei propri dipendenti indicano delle gare, delle messe in concorrenza e ottengono questi buoni pasto con uno sconto. Questo sconto poi diventa l'oggetto della commissione agli esercenti e quindi c'è un sistema che è basato su un equilibrio tra la messa in concorrenza che l'azienda fa da una parte dei buoni per l'acquisto dei buoni pasto e poi la scelta che l'esercente può fare di accettare certi buoni pasto o di non accettarli. L'equilibrio del sistema quindi fuoriesce da questi due aspetti. Ora, per poter garantire un equilibrio che sia di interesse per tutta la filiera, è stato creato un rapporto diretto tra la commissione applicata agli esercenti e lo sconto applicato alle aziende che acquisiscono i buoni pasto. E quando parlavo prima dei servizi, ci sono varie modalità, per esempio, per procedere al rimborso dei buoni pasto, e qui posso parlare della tematica del digitale. Parliamo del buono pasto cartaceo. In alcune circostanze uno dei servizi che gli emettitori mettono a disposizione degli esercenti sono dei sistemi per contare i ticket grazie alla lettura dei codici a barre che ci sono sui ticket. Questo è un servizio, per esempio, detto aggiuntivo, perché un esercente può a questo punto scegliere se rinviare il buono pasto in modo classico, quindi il buono pasto cartaceo, o altrimenti leggerlo attraverso questo sistema per un aiuto di tipo amministrativo. Ecco, qualora si propongono dei servizi in più, quindi detti aggiuntivi, adesso la normativa è chiara, questi servizi devono essere integrati nel contratto in modo tale che l'esercente, qualora è portato ad accettare o meno il dispositivo dei buoni pasto, sia in grado di avere tutti gli elementi per prendere la sua decisione chiaramente scritti nel contratto. E non ne abbia naturalmente delle penalizzazioni economiche, perché sennò altrimenti tutto il nuovo impianto si vanifica. Che cos'altro ci manca, Mauro, da sapere? Allora, il tema delle sanzioni per chi continua a perpetrare gli abusi? Perché... Sì, che non sappiamo quanto potranno essere poi, come dire, perseguiti questi abusi, quanto efficacemente. Ma no, c'è... perché facevamo prima anche l'esempio dell'agriturismo, no? Se tu vai in un agriturismo e non compri le marmellate, ma magari dai due buoni pasto, due ticket al titolare di questa struttura, solamente perché hai dormito lì, chi può saperlo se abbiamo comprato le marmellate o no, ho consumato un pasto? Questo è nella teoria un abuso, ma di fatto, come lo dimostri poi anche lì, no? Sirocchi forse può dirci qualcosa in più rispetto a questo. Allora, io distinguerei i due aspetti che secondo me sono importanti. Un primo aspetto è l'erogazione dei ticket, cioè la distribuzione. Il datore di lavoro dà questi ticket ai propri dipendenti, benissimo. Nell'erogarli deve seguire comunque delle regole specifiche, delle condizioni, perché altrimenti il beneficio fiscale, che abbiamo detto è una detassazione, una decontribuzione fino ai limiti di 5,29 euro per i cartacei e 7 euro per gli elettronici, non c'è. Quindi, allora, quali sono queste condizioni? La prima, la circolare 326 del 97 ci ha imposto, direi così, la condizione che i ticket siano distribuiti a tutti i dipendenti o a categorie omogenee. Poi è stato successivamente specificato che queste categorie omogenee non devono necessariamente essere di uno stesso livello contrattuale, ai sensi del codice civile, ma va bene un qualsiasi criterio. Quindi, non so, una fascia di retribuzione annua lorda piuttosto che uno specifico turno di lavoro, eccetera. Quindi questo è il primo requisito. Secondo requisito, vanno ovviamente erogati solo nei giorni effettivi di lavoro, quindi spettano, maturano soltanto quando si lavora, non quando si è in ferie, non quando si è in malattia o quando comunque non si è presenti. Terzo punto è che naturalmente il beneficio spetta in assenza di menti, servizio di mensa classico in azienda o anche attraverso convenzioni con soggetti esterni. Quindi questi tre requisiti devono essere tutti e tre soddisfatti. Aspettate. Un attimo, dottor Sirocchi, perché voglio proprio fermarla su una telefonata che ci viene da un ascoltatore, Alberto da Verona, che credo vada proprio a puntualizzare su una delle novità della norma. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, la sua domanda. Buongiorno. Allora, la mia domanda era questa qua. Allora, l'ente pubblico per il quale lavoro, un ente locale, fino a 15 anni fa usava i buoni cartacei, poi sì, in seguito a qualche abuso da parte di qualche dipendente hanno deciso anche per opportunità di passare al buono elettronico. Allora, dico una cosa, il nostro ente normalmente il personale lavora con due rientri, poi c'è del personale, del quale faccio parte io, diciamo che ha il 6x6, però quando subentrano le due ore di straordinario può usufruire del buono. Del buono. C'è anche chi fa compiti di polizia che addirittura fa i turni e se sforasse alla sera durante il servizio non può usare il buono perché deve essere obbligatoriamente utilizzato con una normativa interna dalle 13.30 alle 15.30. E questa è la domanda, cioè lei si chiede se è legittimo questo tipo di, è ancora legittima questa limitazione. O se la legge ha portato delle novità in questo senso. Chi Sirocchi chi credo possa aiutarci. La normativa, il decreto 122 non pone limitazioni, tant'è vero che sostanzialmente riprende il testo del 2010 che era stato ampiamente commentato nel senso che il buono può essere erogato anche a lavoratori part-time, quindi non necessariamente full-time, e se ne può fruire anche fuori dei vari turni. Con le novità, abbiamo detto prima, che addirittura si possono utilizzare in qualsiasi giorno dell'anno. Quindi se poi internamente vengono poste delle policy, delle politiche interne per cui vengono limitate l'utilizzo che la legge consente, questo è altro discorso, ma la normativa non prevede. È altro discorso nel senso che è un abuso o no? Oppure a questo punto questo ascoltatore deve aspettarsi una circolare interna con la nuova disciplina? Allora, diciamo così, che terminato il discorso dell'erogazione, su cui non ci sono dubbi, cioè se vengono erogati male, cioè ad esempio se il datore di lavoro ne eroga 20 ticket tutti i mesi in modo fisso, chiaramente un eventuale controllo della Guardia di Finanza, della Agenzia delle Entrate, ovviamente potrebbe eccepire l'errata maturazione e l'errato calcolo, e questo non ci sono particolari dubbi. I dubbi ci sono invece sugli utilizzi impropri, cioè che cosa succede se uno li cede, che cosa succede che se uno anziché acquistare prodotti alimentari acquista lo spazzolino da denti alla cassa, cioè non è che si fa una selezione pago questo col ticket e questo no, diventa complicato. Però, La normativa questo dice, cioè servizio sostituto di mensa, quindi somministrazioni di alimenti o bevande o cessioni di prodotti alimentari, che tra l'altro questo sfugge. Non dobbiamo chiudere, Sirocchi? Ci dica. Sì, e dovrebbero essere addirittura pronti per l'uso, quindi prodotti alimentari pronti per l'uso, pronti per il consumo. Cioè non sì, abbiamo compreso, Sirocchi. Allora, ci sono diverse cose che sono rimaste in sospeso, verificheremo anche se le commissioni con queste nuove disposizioni che ci ha spiegato il dottor Keller, che ringraziamo, avranno qualche effetto. Ringraziamo anche Smeralda Giampaoli, presidente della FIEPET, che ci ha anche segnalato i suoi dubbi. L'abbiamo lasciata un po' lì, però insomma le perplessità della categoria speriamo di averle fatte passare con grande chiarezza. Mauro? Grazie a tutti e come sempre a quest'ora, traffico! Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. di denari. Allora, questa non è solo la settimana di ripresa dell'anno scolastico. Molte famiglie italiane, quelle che hanno figli un po' più grandicelli come Mauro per esempio, stanno anche meditando su un'altra decisione importante, quella della specializzazione post-universitaria, no? E allora parliamo di master, a cui il Sole 24 Ore domani dedica una nutrita guida. Ha censito 2700 corsi. Noi abbiamo la collega che è qui con noi in studio, Francesca Barbieri, la potete adesso vedere. Adesso le facciamo il quiz. Le chiediamo così qualche master a caso per vedere se lo ricorda. Francesca, puoi spiegarci allora come funziona questa guida che domani sarà con il Sole 24 Ore e quali sono le novità che hai trovato nel censire tutti questi master quest'anno? Sì, buongiorno a tutti. Allora, la guida è di 72 pagine e in questa guida l'obiettivo è, come dire, area per area di illustrare le novità principali. Quindi si parte dall'economia, il management, poi la finanza, l'area umanistica anche. E non solo questo, ma abbiamo intervistato anche dei ragazzi che hanno fatto queste esperienze di master, che ora lavorano, che hanno fatto carriera. Abbiamo sentito i selezionatori delle aziende, le agenzie per il lavoro, per dare consigli e per orientare chi ha appena finito un'università nella scelta di questi master che continuano ad aumentare, perché quest'anno ne abbiamo censiti oltre 2700 e sono cresciuti del 10% rispetto allo scorso anno. Tra l'altro sono delle opportunità non solo per i ragazzi, no Mauro? Ma anche per chi un po' più veterani, un po' più adulti come noi, volesse così. Se qualcuno volesse completare la propria preparazione, mi pare di capire che si possa fare anche se si è già così avviata una carriera lavorativa. Si può interrompere, certo. E passare a un master. Certo, ci sono i master per gli executive, ad esempio, poi ci sono gli MBA. Quindi in tutto sono circa 200 queste proposte e ovviamente sono costose. Sono molto costose anche perché di solito qualcuno che già lavora può permettersi una spesa superiore. Certo. Poi ci sono anche dei casi in cui è l'azienda che propone al dipendente giovane di iniziare un master per poi fare carriera all'interno dell'azienda. In questo caso è l'azienda che paga, diciamo. Sono casi, pochi casi, però ci sono. Francesca, nella guida, la guida poi viene completata, tu hai già detto è di oltre 70 pagine, è domani in edicola con il Sole 24 Ore, è divisa per aree, però viene completata anche da un grosso lavoro, un database che noi metteremo sul sito proprio da domani e grazie al quale si potrà fare che cosa? Sì, allora è un database gratuito, basta collegarsi al sito del Sole 24 Ore, il link è www.isole24ore.com/guidamaster e da questo motore di ricerca è possibile selezionare e navigare all'interno di questo enorme database impostando i criteri che si ritengono insomma utili per sé. Quindi io posso andare a scegliere l'area, posso vedere la fascia di costo, posso vedere l'università, posso vedere se ci sono borse di studio o stage, se è un doppio titolo, quindi se sono previsti dei periodi di studio all'estero. No, così possiamo accontentare tra l'altro Claudio che su WhatsApp chiedeva proprio se c'è il master per scienza dell'alimentazione e gastronomia, lo possiamo già invitare. Domani sarà disponibile questo database, può cercare se non ci fosse proprio con questo titolo, può trovare qualche cosa di molto simile. Francesca, tra l'altro nella guida noi parliamo anche, ti sei occupata anche di mettere una parte che si occupa dei costi, già lo dicevamo prima, ma anche delle possibilità di avere qualche sconto se non altro dal fisco, è così? Perché ci sono alcune piccole novità che possono agevolare certe categorie. Sì, allora come tutti gli anni la regola generale è che chi si iscrive ad un master può detrarre il 19% del costo di iscrizione. La novità riguarda i lavoratori autonomi, perché il Jobs Act degli autonomi che è entrato in vigore quest'anno ha aumentato la soglia di deduzione al 100%, quindi il lavoratore autonomo, se il master rientra diciamo in una spesa per la propria formazione, può dedurre fino a 10.000 euro per intero. Nella guida poi, Francesca, noi abbiamo presentato anche qualche dato sulla così possibilità di occupazione. Tra l'altro proprio poco fa sono stati diffusi, li trovate sul sito del Sole 24 Ore, sul sito di Radio 24, i dati sull'occupazione sono in miglioramento, questa è una buona notizia. Come cosa possiamo dire rispetto, naturalmente non c'è nessuna garanzia che facendo un master poi uno trovi un lavoro o migliori la sua posizione lavorativa, ma i dati degli anni precedenti cosa ci dicono? Sì, noi abbiamo sentito il consorzio interuniversitario Alma Laurea, che raggruppa la maggior parte delle università italiane. Quindi secondo l'indagine che loro hanno fatto sui diplomati di master, risulta che il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo è superiore all'84%, mentre il tasso di disoccupazione è al 10%. Quindi diciamo che sono buoni i risultati. Assolutamente. Sono risultati che confortano anche rispetto alla spesa, perché, lo ripetiamo, può anche essere molto alta. Insomma, si va dal master part-time o della formula a fine settimana, che magari a costi più contenuti, sì, ma poi ci sono quelli di durata annuale. Certo, il costo dipende da tutta una serie di fattori. Intanto bisogna vedere se si tratta di un'università pubblica o privata, di un istituto privato. Poi i costi dei master di secondo livello di solito sono più alti rispetto a quelli di primo livello. E poi ovviamente se andiamo sugli MBA i costi sono altissimi. Infatti, qual è quello più innovativo che dal tuo censimento ti ha colpito di più? Ma io ho notato che ci sono tanti master che puntano sul web, quindi sulle specializzazioni, non so, la finanza legata al web, anche in area umanistica. La green economy ho visto, il turismo, ma anche l'ambito sociale, quindi ci sono anche settori tradizionali, diciamo, dell'economia, sì, che comunque hanno bisogno di un'alta specializzazione e nei quali bisogna formarsi sempre di più. Tra l'altro, mentre rispondeva ad una precedente domanda, Mauro, appunto Francesca, secondo me ci ha dato uno spunto importante da portare a Due di Denari. Dovremmo occuparci prossimamente dello statuto del lavoro autonomo e di tutte le novità che ha introdotto, perché sempre di più ci sono rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sempre di più professioni autonome e quindi lavori autonomi che forse vale la pena anche di scandagliare. E lo faremo senz'altro. Allora, grazie a Francesca Barbieri che ci ha illustrato questa guida domani in edicola, grazie a voi dell'ascolto, esatto, grazie a chi ci ha scritto, ci ha telefonato. Tra l'altro la guida vive tutto il mese in edicola, no? La guida cartacea sarà distribuita solo domani, potrà essere forse in vendita, ma non diamo sicurezze, sul nostro sito in Benissimo. Formato ebook. Grazie a tutti, Due di Denari torna domani, buona giornata.